fatto di lavorare per il signore del male significa non solo distruggere, bruciare case, squartare capre vive, ma anche sbagliare, fare cazzate di cui poi non ci si possa vantare. Ci sbattiamo? No, cerchiamo le vie più comode, paraculi di prim'ordine. Se i miei versi non stanno nelle metriche, non muovo la penna per farceli stare. Come viene viene, e poi alla fine dico con la passione per il far cagare. Credevi di poter aderire e partecipare, credevi di poter trovare il nuovo stile con cui saziare le crew italiane. Tu sai rappare, io non so niente, ma compio lo stesso, scrivo lo stesso per passare il tempo. Sì, lo stile delle razze biose non è altro che volgare, poca voglia di studiare. Se qualcosa non ci riesce, cambiamo direzione. Ecco perché le classiche strade non ci vanno più bene. Non ti preoccupare, il mondo per te resta tale quale. Siamo ricoperti di muffa, il nostro scopo è contaminare, per far marcire dentro qualsivoglia genere musicale. Rimane il fatto, abbiamo previsto cosa avresti pensato e non puoi negarlo, ammettilo. Non sei per niente furbo, qualsiasi cosa dirai, scriverai o penserai, ce l'aspettiamo da tempo. Questo succede quando chi come noi non ha un cazzo da fare. Manteniamo i ruoli che voi ci avete imposto, voi fate bene e noi facciamo il male. Se non si può ragionare, ci tocca proprio non reagire. La volpe e l'uva, il nostro stile è una scusa. O forse prima di criticare gli altri guardiamo cosa abbiamo in casa. La volpe e l'uva, la rima fra cose e casa non mi piace. Per questo il ritornello finisce senza cetrioli andalusi. Fa niente, tanto per lo zazì che vanno bene che cetrioli greci.